Europa 24. Through a diversification the range of languages people learn, including less widely used languages. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento di Europa 24. Oggi lo facciamo da Firenze. A Firenze, dove questa mattina è toccato al padrone di casa, dunque al sindaco del capoluogo toscano, il sindaco Nardella, peraltro in un ottimo inglese, possiamo dire aprire i lavori della due giorni europea delle lingue. Ovviamente in una comunità linguistica di 28 stati e 25 lingue, difficile apprenderle tutte, ma di certo un progetto integrato e probabilmente fondante dell'Unione Europea, cioè quella della condivisione culturale. Come farlo se non attraverso una maggiore conoscenza delle lingue reciproche? Ecco, tutto questo è stato codificato a Barcellona nel 2002 con la dichiarazione appunto di Barcellona, che impegnava in un primo luogo tutti i cittadini europei a condividere almeno una seconda lingua, poi rafforzata più recentemente dall'invito sostenuto da un progetto della Commissione Europea perché le lingue conosciute, oltre alla propria lingua madre ovviamente, fossero in realtà due. Is it working or not? And we were disappointed. Many young people don't speak any languages, not only the young, probably the young. Allora, qual è la situazione? Ne abbiamo parlato con la responsabile, la commissaria europea Vassiliou, e ci ha spiegato che in realtà ci sono dei risultati in chiaro scuro. Da una parte, infatti, molti giovani europei, in particolare attraverso progetti come Erasmus, hanno fatto davvero grandi balzi in avanti, però le differenze sono ancora molto forti proprio all'interno del sistema delle nazioni dell'Unione Europea. Ha citato gli estremi con paesi come Malta, la Svezia, dove oltre l'80% dei cittadini parla almeno una seconda lingua, e dalla parte opposta gli ultimi in classifica, il Regno Unito per esempio, dove solo il 9% dei cittadini e delle cittadine parla una seconda lingua. Facile immaginare un problema legato alla forza della propria lingua madre, che in questo caso però si trasforma in un grave difetto e anche in un limite. Ci spiega la Vassiliou che per esempio per i cittadini del Regno Unito è molto difficile acquisire delle posizioni in seno all'amministrazione, alla burocrazia europea, che prevede la conoscenza di almeno una lingua al di fuori della propria. Quando invece le abbiamo chiesto di fare il punto con noi sulla situazione italiana, la commissaria europea è stata decisamente più ottimista, in particolare citando il cosiddetto modello CLIL, cioè quello dell'apprendimento di una lingua straniera attraverso l'insegnamento delle materie. Insomma, non più studiare inglese, o meglio non solo studiare inglese o francese come lingua straniera, ma studiare scienze piuttosto che storia in una lingua straniera. Ecco, un modo per diventare davvero multilingue, soprattutto un modo che permette una regolarità che evidentemente può partire dalle scuole elementari, cosa che in Italia viene già fatto invece nelle scuole superiori. A partecipare anche al congresso, agli incontri fiorentini, il ministro dell'istruzione Giannini, che abbiamo sentito proprio sulle modalità di insegnamento in Italia. La lingua si insegna perché sia un insegnamento efficace anche e soprattutto come strumento di altri contenuti, modalità CLIL, e non solo come oggetto di studio. Si parte dalla scuola primaria perché, come altre facoltà cognitive, il linguaggio, se viene appreso prima, dà risultati migliori, quindi sono strumenti che sono utilizzati in molti paesi con risultati molto brillanti. Questo è dunque il tema principale della nostra giornata, ma abbiamo spazio anche per sentire invece che cosa si prepara a Bruxelles, dove la prossima settimana iniziano le audizioni al Parlamento europeo dei 28 commissari designati dal presidente Juncker. Non sarà una passeggiata, promettono gli eurodeputati. Ci racconta tutto Laura Bettini. Tre ore davanti alle commissioni competenti, senza assistenti né telefoni. Qualcuno arriverà relativamente tranquillo però, altri meno, come Frans Timmermans, che Juncker vuole come primo vicepresidente con accesso diretto a tutte le DG. Un ruolo senza precedenti, e per questo a porgli le domande sarà la conferenza dei presidenti, l'organo composto dai leader dei gruppi politici del Parlamento. Partono in salita anche Carmen Uvella, possibile responsabile per ambiente, pesca e affari marittimi, e Dimitris Avramopoulos, Papadimopoulos, che potrebbe diventare il primo commissario per l'immigrazione. Né Malta né la Grecia, però, hanno mai espresso politiche di riferimento continentale negli ambiti in cui sono chiamati a lavorare i nuovi commissari. Sono invece sulla persona di Miguel Arias Cañete le perplessità di Verdi e Sinistra Europea. Nel trascorso del commissario spagnolo per energia e clima accusano ci sono una storia non brillante come ministro di agricoltura e ambiente, una lunghissima partecipazione azionaria nell'industria petrolifera spagnola, in conflitto di interessi con l'incarico, e alcuni recenti commenti sulla superiorità maschile sul femminile. Non vedo alcun motivo per cui approvarlo, dice Reinhard Butikofer, deputato dei Verdi Europei. Se Cañete non convincerà gli eurodeputati, Juncker dovrà scegliere tra rischiare la completa bocciatura della Commissione, affidare a Cañete un altro incarico o chiedere alla Spagna di indicare un altro candidato. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto per questo appuntamento da Firenze, come vi ho detto, di Europa 24. Noi torniamo questa sera nello spazio di Europa 24 Notte e, come di consueto, domani intorno alle 14. Un saluto da Gigi Donelli. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.